si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Dunque, eccoci qua, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Potete cominciare sin da adesso a prenotare il vostro intervento per commentare quello che sentite, quello che sentirete, per raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana. In palio anche oggi biglietti per andare al cinema a vedere Maps of the Star, To the Stars di Cronenberg nel cinema del circuito UCI Cinema. Però bisogna rispondere alla domanda: chi è il personaggio della settimana? Cerchiamo sempre la domenica un personaggio sulla base di una notizia di questa settimana. Il primo indizio però ve lo daremo tra pochissimo. Tra poco invece entriamo a gamba tesa oggi domenica, parleremo dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, i controlli del fisco sulla base del nuovo redditometro. Sono arrivate le prime lettere di accertamento sull'anno 2009, lotta all'evasione fiscale, la volta buona. Ne parliamo tra poco con due ospiti. And now the good news. Adesso una buona notizia che non abbiamo dato in apertura, la diamo adesso. La buona notizia di oggi è un invito ad andare in vacanza in Liguria, perché conviene. Fino al 15 giugno dormi due notti, la terza te la danno gratis, per evitarti la coda in macchina la sera a rientro dalla Liguria alle città di provenienza, spesso per esempio la Lombardia. Ebbene sì, tutte le strutture che aderiscono a questa iniziativa ti regalano la notte della domenica se sta il venerdì e il sabato. Insomma, un invito ad andare in Liguria, ma anche a risparmiare. Potete andare sul sito Weekend in Liguria e trovare tutte le informazioni per questa iniziativa. Non sei più lo stesso, sempre in cerca di noi, anime pezzi di razze diverse. E vado dal contesto e inculo tutto il resto. Siamo partiti con questa Evado perché parliamo appunto invece di lotta all'evasione fiscale. Abbiamo detto, stanno arrivando le prime lettere dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il nuovo redditometro, che incrocia tutta una serie di dati per fare la lotta all'evasione fiscale. Parliamo dell'anno 2009, se avete ricevuto una di queste lettere, 800 24 00 24, oppure sono circa 20.000 le prime verifiche. Se invece non avete nulla a che fare con queste, volete comunque dire la vostra su questo, sempre 800 24 00 24. È anche boom di segnalazioni da parte dei contribuenti, si presuppone onesti, proprio per quanto riguarda l'evasione fiscale. Ne sanno qualcosa i fondatori del sito evasori.info e noi parliamo proprio con loro e abbiamo convocato Patrizia Chiaramonte. Buongiorno. Buongiorno, in buongiorno a tutti. Qualità di portavoce appunto del sito evasori.info, un sito nel quale voi avete una mappa interattiva dove potete andare, e lo hanno già fatto tantissime persone. Avete superato da poco il milione di segnalazioni, vero Patrizia? Sì, esatto, abbiamo superato un milione di segnalazioni e la piattaforma di evasori.info è nata proprio con una finalità di all'inizio inizialmente di ricerca e di studio. Oggi è diventata un'iniziativa molto concreta per combattere il fenomeno dell'evasione, ma dal basso, quindi facendo concretamente nella nostra quotidianità delle segnalazioni di evasione, ma non soltanto di evasione. Di recente abbiamo introdotto anche una nuova funzionalità che permette di segnalare anche dei soggetti onesti. E questo può essere fatto in maniera palese, quindi segnalando anche proprio il nome, il cognome o il nome dell'attività delle quindi non soltanto segnalazioni di professionisti, commercianti o tutto quello che volete, insomma, dove ci può essere evasione, appunto segnalazioni di evasori, ma anche segnalazioni di degli onesti, insomma, sì, questo per incentivare un po' anche virtuosi. Sì. è importante questa doppia possibilità, sì, perché da un lato finora la segnalazione era pervenuta e aveva segno negativo. Il fatto che ci possano essere anche segnalazioni in positivo permette di cambiare un pochino la sensibilità e anche di incidere un pochino. Cioè vogliamo guardarci intorno e trovare anche qualcuno che ci rasserena, che ci tranquillizza da questo punto di vista. Se io per esempio cerco magari un artigiano e voglio essere sicuro di non sentirmi fare la domanda finale con fattura, senza fattura, ma voglio pagare la fattura, vado sul vostro sito e posso trovare anche questo. 1 milione di segnalazioni vuol dire che c'è un interesse, vabbè, ma questo basta leggere i giornali e parlare in giro con la gente, crescente da parte degli italiani su questo tema, sì, dell'evasione, Patrizia. Sì, notiamo una sensibilità crescente. Tutto questo ovviamente è avvenuto, almeno nel nostro caso, nel caso della nostra piattaforma, nel corso degli anni, quindi è una sensibilità che però vediamo cresce di giorno in giorno. Quindi e su questo noi insistiamo molto, cioè sulla possibilità di creare una nuova, di invertire la tendenza, di creare una nuova sensibilità che ogni cittadino può esprimere in questo modo. Questo per migliorare la qualità della nostra cittadinanza. Insomma, che l'emergenza dell'evasione fiscale sia tale, cioè che sia veramente non tanto un'emergenza, perché ormai è più che emersa, è straemersa, gioco di parole sul fatto che invece si tratta di un'economia sommersa, è una realtà, la conosciamo tutti, è un problema grosso, insomma, che sottrae tra l'altro risorse anche allo Stato, ma crea una concorrenza sleale da parte invece per le aziende che operano, per gli artigiani, i liberi professionisti, rispettando e pagando tutte le tasse. Allora, su questo versante è un po' tutta l'Europa, ma direi il mondo intero che si sta muovendo. Sappiamo di accordi per esempio per limitare la riservatezza nei cosiddetti paradisi fiscali, si stanno facendo passi in avanti. Questa settimana l'Inghilterra ha il ministro, credo, dell'economia, ma avallato dal Premier Cameron, conservatore, ha proposto il prelievo forzoso sui conti correnti degli evasori, una cosa che insomma, una misura abbastanza forte. In attesa che si faccia qualcosa del genere anche in Italia, continuiamo a guardarci intorno in Europa, perché un'altra notizia viene dalla Slovacchia, dove dopo il Portogallo anche in questo paese hanno reso possibili gli scontrini fiscali con all'interno le lotterie. Cioè io prendo lo scontrino, partecipo all'estrazione di una lotteria e posso vincere, e questo è un incentivo a fare gli scontrini. Ne parliamo, mentre Patrizia Chiaramonte di evasori.info resta con noi, anche con il fondatore della New World Printing di Monza, quelli che hanno in Italia il brevetto per fare questa cosa qua, Ivan Brignani, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci eravamo già sentiti un po' di tempo fa, quando avevate cominciato ad operare sul mercato. Come va? In Italia questa cosa ancora non è molto conosciuta. Si può fare intanto? Allora, si può fare, e lo dimostrano i numeri, come ha detto lei. Oltre alla Slovacchia siamo arrivati al Portogallo, Argentina, Brasile, Bolivia, Porto Rico, Taiwan. E le posso garantire che sono tutti governi che le stanno attuando con un notevole risultato. Si parla di un incremento dell'emissione degli scontrini del 70%. Cioè, questa cosa in Italia sta funzionando, premesso che il brevetto non è solo italiano ma è europeo, quello che era New World Printing. E in Italia sta prendendo piede, purtroppo, a livello privato. Perché dico purtroppo? Perché otteniamo dei grossi risultati, addirittura si è affacciata la GDO, la grande distribuzione. Sì. E lo stanno utilizzando anche nel Veneto degli ipermercati, e vediamo dei grossi risultati. La domanda che ci facciamo è che averlo ideato, averlo inventato e vederlo che lo utilizzano gli altri governi, un attimino di risentimento ce l'abbiamo. Cioè voi dite, è una cosa che non ha controindicazioni, perché apparentemente non fa male a nessuno, può aumentare l'emissione di scontrini fiscali, quindi aumentare, migliorare un pochino la lotta all'evasione fiscale, non costa nulla, perché non farlo? Ma cosa manca? Un'autorizzazione, un permesso, che cosa manca in Italia? Guardi, le dirò di più, la resistenza, che anche questa è sicuramente accantonata, era il problema ludopatico, che poteva entrare nella ludopatia. Questo non è fattibile, in quanto non è un prodotto che lo si può acquistare. Ma in che senso poteva entrare nella ludopatia? Nel senso che c'erano le associazioni che dicevano che c'era già il gioco delle macchinette, portava a giocare. In realtà lo scontrino non è così, perché non è acquistabile. Cioè lei può acquistare un prodotto e ricevere lo scontrino con carta gratis, ma non può comprare uno scontrino col gratte gratis o col gratte vinto. Non credo che uno vada a fare la spesa solo per avere lo scontrino per partecipare alla lotteria. Bravissimo, sarebbe un incentivo fin troppo. Non per lo scontrino col gratte vinci. E le dirò che abbiamo deciso, io e mio fratello William, che siamo gli inventori, sì, e in esclusiva glielo dico a lei a Radio 24, abbiamo deciso di intraprendere una strada. Abbiamo deciso di vendere il brevetto europeo al governo Renzi a un euro, previa fattura ovviamente. Questa ovviamente è la nostra decisione e glielo dico in esclusiva. Cioè, nel senso, voi volete regalare quindi di fatto questa di cosa fatto qua? Sì, però lo vendiamo a un euro con fattura, perché dobbiamo fare le cose regolari. E questo è perché ci siamo letteralmente stancati di vedere un progetto che tutto il mondo ci riconosce che funziona, sì, in un cassetto. Che proprio da noi non lo utilizziamo. Però, Brignani, io non ho capito una cosa. Qual è la differenza tra l'Italia e i paesi dove invece questo sistema è stato adottato a livello governativo, a livello statale? Cioè, ci vuole un'autorizzazione che diventi un obbligo, come dire? Perché voi già lo state facendo, però si aderisce su base volontaria. Come funziona? Sì, sì, noi abbiamo ideato un prodotto nostro, sì, abbiamo parecchi negozi, parecchi supermercati che lo utilizzano. Praticamente avevamo fatto un concorso che si chiamava Gratta lo sconto, per non, sì, entrare nelle premi, e il commerciante metteva fuori tre tipi di sconto, A, B e C, e decideva lui che tipo di sconto faceva. Questo ha dato una bella visibilità al commerciante e abbiamo avuto dei ritorni, tant'è che abbiamo finito il prodotto, stiamo rimettendolo ancora in stampa perché continuano a richiedercelo. E questo ci lascia perplessi, perché dicono: non è possibile che è testato e funziona. Tant'è che noi offriamo anche una cosa: se il governo o compra il brevetto o vuole fare un test su una piccola regione, lo verifica subito. Sì. Perché, come dice lei, in tutto il mondo funziona. Allora, quando una cosa funziona, gli altri sono meno burocratici, la copiano e la attuano. E via, tac. E invece, diciamo, ci parlava di grande distribuzione, perché voi siete già presenti in alcune catene di supermercati, in alcune regioni. Dov'è che si può trovare il vostro scontrino con la lotteria? Allora, per non far pubblicità, noi abbiamo nel Veneto abbiamo una grossa catena distributiva che l'ha utilizzato. Addirittura le, sì, dico cosa è successo: ci ha richiesto la fornitura per 30 giorni, per un mese di promozione. Arrivato il 20 del mese ha dovuto riandare in stampa perché li aveva finiti. E hanno fatto una riunione per verificare questo incremento, che non è detto che il 30% in più di scontrini corrisponda al 30% in più di fatturato, per amor di Dio. Però sicuramente una redemption, un ritorno del 3-4% è un buon risultato, figuriamoci averlo al 30%. Certo. E questo ha instaurato un effetto domino che altri supermercati limitrofi lo stanno facendo. Perciò sono strassicuro della meccanica, che non ha alcuna problematica, sta solo individuare la tipologia di concorso che si vuol fare, e sicuramente porta un maggiore introito anche nelle casse del governo. Allora, caro governo Renzi all'ascolto, hai sentito? Brignani della New World Printing di Monza ti offre il brevetto a un euro, previa fattura, dello scontrino con dentro la lotteria. Cosa stiamo aspettando? Cioè, che dicano che non si può fare per questa ragione, allora uno se ne mette l'anima in pace. Ma se non c'è ragione, altrove si fa, e qui non si fa solo per inerzia, allora questo è un peccato. Patrizia Chiaramonte di evasori.info. Un tempo essere vantarsi con gli amici al bar di non aver pagato qualche tassa era, si diventava un po' fighi, no? Perché uno dice: beh, dai, sei riuscito a fare il furbo, l'hai fatta franca. Insomma, non c'era questo senso di responsabilità sul fatto che non pagare le tasse a ricaduta creava problemi anche su quegli altri che stavano al barco con te a condividere questa notizia, cioè su tutta la collettività. Oggi sta cambiando questa immagine. Sì, sta cambiando, cambia lentamente, però comincia a cambiare, e quindi il fatto di poter dire: io invece dichiaro tutto e sono onesto, comincia ad essere un qualcosa di cui potersi vantare, quindi l'onestà come un valore rispetto invece a prima, che diventava quasi un disvalore, quasi una piccola vergogna, insomma. I dati in qualche modo ce lo dimostrano. Naturalmente gli utenti che segnalano, nel nostro caso sulla piattaforma, sono utenti che non arrivano alla denuncia vera e propria, o in alcuni casi soltanto, però sono persone particolarmente infastidite e quindi preferiscono agire in qualche modo, magari in una forma ancora anonima, ancora poco formalizzata, però preferiscono fare qualcosa piuttosto che niente, piuttosto che sopportare e subire passivamente. E va bene, grazie. Allora Patrizia Chiaromonti di Evasori.info, ma anche grazie a Ivan Brignani della New World Printing di Monza, che, lo ripetiamo, il suo appello offre il brevetto per lo scontrino con la lotteria praticamente gratuitamente al governo. Speriamo che qualcuno ci ascolti. Brignani, in bocca al lupo, ci risentiamo se c'è qualche aggiornamento. Buongiorno. Grazie. Buongiorno a lei. 800 24 00 24, chiamateci se avete ricevuto una di queste prime 20.000 segnalazioni sull'anno 2009 per quanto riguarda il nuovo redditometro, oppure semplicemente se volete commentare le storie che avete sentito, cosa ne pensate, l'adozione di questo metodo, lo scontrino fiscale con la lotteria, che questa settimana, insomma, anche la Slovacchia, un piccolo paese, però avete sentito, sono tanti i paesi che lo stanno facendo. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno anche a Carlo Gabardini, ciao Carlo. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona domenica. Oggi in perfetto orario. Oggi in perfetto orario, sì, con un po' di affanno ammetto, ma però in perfetto orario, diciamo. Ieri è stata una giornata intensa per te. Intensa, campale, lo è stata un po' per tutto il mondo. Ieri era la giornata mondiale contro l'omofobia, ci sono state manifestazioni ovunque, io ero a Genova. Hai fatto il testimonial? Ho fatto il testimonial in una bellissima manifestazione a Genova. Proprio in centro, in piazza De Ferrari, c'era una bellissima manifestazione organizzata da un coordinamento di tutte le associazioni gay, lesbo, trans, di qualunque tipo. E questa cosa, in realtà, io il discorso che ho fatto è partito esattamente da questo, perché serve un coordinamento, perché possiamo dire che di associazioni ce n'è fin troppe, e tutto il mondo, anche diciamo militante dei diritti LGBT, è estremamente frastagliato, ognuno insomma si fa la propria associazione, poi litigano fra di loro. Quindi il fatto che ci sia invece un coordinamento con più di 20 associazioni, tutti insieme decidono di fare una stessa manifestazione, mi è sembrato molto buono. Ci sono in tante altre regioni esperimenti di questo tipo, bisognerebbe probabilmente fare un coordinamento nazionale, che in realtà c'è, però diciamo è molto litigarello, come si suol dire. Soprattutto per dialogare anche con gli etero, insomma, perché sennò si... Totalmente, perché questa cosa è infatti fondamentale, che ripeto sempre, io parlo fondamentalmente agli etero, nel senso che gli omosessuali lo sanno di esserlo, hanno di volere i propri diritti, però la cosa importante invece è parlare con la parte eterosessuale del paese, che in realtà ci accoglie un sacco di volte molto, molto bene, e soprattutto è quello il motivo diciamo per cambiare le cose, nel senso che la battaglia dei diritti LGBT non è solamente delle persone LGBT, anzi è assolutamente di tutti. C'era tanta gente alla manifestazione, c'era moltissima gente, e ha aperto la madrina Lella Costa, con la quale sono andato su in treno da Milano, tra l'altro dicendo una cosa molto bella, leggendo una lettera. Lei fa la giuria di un concorso di lettere ai giornali, che non sapevo che esistesse, che mi sembra un concorso bellissimo. Poi appena mi informo meglio, un giorno ne parliamo, perché mi sembra un bellissimo concorso. Leggevo questa lettera di questa donna che scriveva a un giornale dicendo: noi abbiamo due figlie, nel quartiere tutti ci vogliono bene, le persone ci vogliono bene, quando andiamo dal macellaio, il macellaio dà sempre una fettina di carne anche per le bambine, tutti salutano, le vecchiette gli danno le caramelle, sono tutti gentilissimi, e a nessuno interessa che queste bambine abbiano due mamme. Questo per dire che in realtà il paese è molto più avanti della nostra politica. Questo è sempre quasi sicuro. Sì, solo che ogni volta che lo si incontra è abbastanza fa strano. E infatti, roba, è vero, perché il dibattito è impegnato su posizioni a volte di retroguardia rispetto a quello che poi la gente tranquillamente vive. Esattamente. Sì. Un paio di, perché ci sono due risposte di ascoltatori all'SMS 3422386666 per quanto riguarda la proposta a cui siamo partiti, cioè lo scontrino fiscale con la lotteria. Uno ci dice: ma non eravate contro il gioco d'azzardo? un ascoltatore non filmato. Beh, interessante come, però, come domanda, però, perché effettivamente questo però non è il gioco d'azzardo, perché è un effetto collaterale di un acquisto. Io compro una bottiglia d'acqua e mi danno in cambio uno scontrino. Beh no, tecnicamente però anche, è anche gioco d'azzardo. Sì, però non acquisto il gioco d'azzardo, ma acquisto l'acqua. Però uno però magari inizia e dice: devo assolutamente comprare 40 bottiglie d'acqua perché voglio 40 biglietti di quella lotteria. Ma non credo, perché non è così, non è che si vince così facilmente queste lotterie. Poi un'obiezione più giusta è: ma il governo non venderebbe più i gratta e vinci, ecco perché non lo vogliono adottare. E questa è una domanda. Beh, una allora, se, già più... però secondo me non è vero che non venderebbe più i gratta e vinci, perché appunto, come dicevi tu, sono un po' due mondi diversi. Uno è un po' quell'idea della lotteria di paese, se vogliamo, e l'altro invece io voglio vincere dei soldi, quindi vado e investo dei soldi. Chiudo in realtà il discorso semplicemente dicendo che ieri, infatti, mentre eravamo in piazza a parlare di omofobia, Renzi ha twittato intorno a mezzogiorno: giornata mondiale contro omofobia, c'è ancora molto da fare anche in Italia, stop omofobia. Un paio dopo, di ore dopo gli ha risposto Vendola, sempre con un tweet dicendo: caro Matteo Renzi, sì, c'è molto da fare, cacciare il partito degli omofobi e dei sepolcri imbiancati dal tuo governo e maggioranza. Quindi è iniziata una polemica. Poi Vendola in una conferenza stampa ha rincarato la dose dicendo: qualcuno può avvisare Renzi che è molto impegnato nella campagna elettorale, che il nucleo d'acciaio del clericalismo ipocrita che ha impedito per mezzo secolo al nostro paese di respirare modernità ce l'ha tutto lui nel suo governo. Quindi in realtà è partita la polemica e mi sembrava indicativo che nel momento in cui noi eravamo in piazza ad abbracciarci, accogliendo tantissime persone etero che dicevano: ma noi non abbiamo nessunissimo problema, ma ci mancherebbe altro, se volete sposarvi fate quello che volete, non c'è assolutamente nessun problema. In realtà via tweet di sabato la politica si prendeva male parole. Poi è entrata anche la Boldrini, ha fatto un tweet diciamo contro l'omofobia. Io ho risposto a Renzi con un tweet invece a tarda sera dicendo semplicemente che non è semplicemente per Renzi, è semplicemente per Renzi perché lui in questo momento è Presidente del Consiglio, dicendo: c'è un'unica cosa da fare, in realtà non è che ci sono tantissime cose da fare, ed è quello di dire: siccome i gay sono assolutamente identici agli eterosessuali, devono avere gli stessi identici diritti degli eterosessuali, fine della questione, bisogna parificare. Perché, se posso dire un'ultima cosa, molte volte è anche difficile chiedere al paese, diciamo, di non essere omofobo e quindi fare manifestazioni contro l'omofobia, quando in realtà è lo Stato stesso che sancisce una differenza di fondo fra chi è omosessuale e chi non lo è. Quindi se non è lo Stato per primo che decide che è assolutamente paritaria la situazione e siamo assolutamente identici, poi diventa difficile chiedere invece ai cittadini di dire: perché lo stai discriminando, nel momento che siamo discriminati dallo Stato in partenza. Carlo, eccoci. Sentiamo un paio di ascoltatori, poi molto se hai qualche notizia la facciamo più avanti. Marzio da Pordenone, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo cogliere al balzo l'occasione, perché sì, questa settimana sono stato colpito da ben due lettere, per fortuna non quella del redditometro, anche perché sono un dipendente di un'azienda, quindi non ho redditi mostruosi. Però è identificativo anche di quello che stava dicendo Gabardini, nel senso che io sono convivente e ho un figlio con la mia convivente. E quando abbiamo chiesto l'esenzione, anzi non l'abbiamo neanche chiesto noi, ce l'hanno detto allo sportello, perché il figlio essendo inferiore dei 6 anni, e ci hanno detto che per il reddito, per l'esenzione sotto i 36.000 euro, dovevamo considerare solo il reddito di uno dei due e non di entrambi. Non entriamo troppo nei tecnicismi perché ci perdiamo. Però che cosa voleva dire? Che cosa vi hanno negato? Per farla breve, sì. Abbiamo ricevuto una multa per non aver pagato 45 euro di ticket, che noi avremmo pagato se non ci avessero detto che avevamo diritto alle esenzioni. Lo so, le complicatezze, le assurdità del fisco italiano purtroppo esistono. Ma non ho capito, voi non avete l'esenzione in quanto non siete sposati? No, perché noi facciamo comunque cumulo, come se fossimo sposati, quindi anche nel caso che ha detto Gabardini per le due donne che convivono, certo, chissà che anche nel loro caso non vengano considerate comunque nucleo familiare fiscale, perché a questo punto qui non si capisce bene. Tra l'altro anche la ricerca online, io ho fatto anche un quesito all'esperto risponde del Sole 24 Ore e spero che ci rispondano, perché non c'è neanche riferimento alla norma che noi avremmo eluso sulla multa che ci è arrivata. Questo è ancora più divertente, c'è semplicemente detto che superiamo il reddito di 36.000. ma scusami, però una cosa che alla norma, la questione che non capisco, perdonami, è: voi non siete sposati ma per il fisco risultate come se dovesse avere un unico reddito perché vivete insieme? Esatto, sotto lo stesso tetto. Questo è quello che ho capito, perché ripeto, noi non abbiamo ancora ricevuto. Siete una coppia di fatto, diciamo. Sì, lo siamo una coppia di fatto, ma no, è interessante, però siamo come se fossimo marito e moglie. Certo, però tu dici, se anche due ragazzi magari vivono insieme e non sono assolutamente sposati, non sono neanche omosessuali, sono magari due studenti che vivono insieme, potrebbe essere che venga calcolato come un unico reddito. L'ho detto come buttarla, ma visto quello che è successo a me, è bene che lo sappiano tutti, giusto, almeno per giusto, fare chiarezza. Bene. Ne ho ricevuta un'altra dopo pochi giorni. Ma dove che mi sfigato, Marzio. La TARSU del 2008, io sono martire in questi giorni, quindi scusatemi. Marzio martire. Sì, esatto, visto che non c'è il santo, almeno lo facciamo martire. E cosa c'era? Ho ricevuto la richiesta di ripagare la TARSU del 2008 e lunedì andrò ad Equitalia a chiedergli perché mi richiedono con la ricevuta. Va bene, Marzio, grazie. Questo, volevo... Sì, vabbè, ma queste cose succedono un po' a tutti, che arrivino le lettere. Purtroppo lo sappiamo, non per non parlarne, ma... insomma, lo sappiamo che contemporaneamente alla lotta all'evasione fiscale va fatta una vera semplificazione. Adesso qualcuno ha annunciato che dall'anno prossimo non ci sarà più il 7,40. Cose come quelle che raccontava Marzio dovrebbero succedere. Ci sarà il 7,50. Sempre meno. Speriamo un passo indietro, il 7,20. Giuseppe da Roma, buongiorno. Buongiorno. Io sono dell'Associazione Finanzieri Cittadini Solidari, Finanzieri Intesa Guardia di Finanza. Come si chiama l'associazione, Giuseppe? L'associazione si chiama FCS, Finanzieri Cittadini e Solidarietà. C'è quindi una fratellanza tra... Prenderemo contatti anche con il sito evasori.info. Sì, Giuseppe, vi siete... presenteremo a Forum Piazza. Giuseppe, scusi un attimo, sì. Perché non è una cosa inedita questa dell'associazione. Finanzieri... ma io non la conoscevo. Finanzieri, cioè un gemellaggio tra finanzieri e cittadini, è questo il senso della vostra... È un'organizzazione civica che serve, che nasce per far colloquiare, interagire e collaborare gli appartenenti alla Guardia di Finanza con i cittadini comuni, quindi le tematiche che abbiamo a stare affrontando ovviamente sono come funziona questo core della nostra Giuseppe, funziona questo quest'idea, cioè si riesce a fare. Abbiamo 17 milioni di contatti, un forum con 32 milioni di letture, praticamente siamo fortissimi all'interno della Guardia di Finanza e molto poco conosciuti all'esterno. Infatti. E invece bisogna essere conosciuti all'esterno, nel senso che... Facendo di tutto da diversi anni, anche se purtroppo insomma non è semplice perché non facciamo manifestazioni di piazza. Ma che cosa fate però? Fate delle cene, delle pizzate? Per cominciare facciamo proposte concrete, progetti sui quattro settori statutari che ci interessano, che sono quelli semplicemente dell'affidabilità democratica delle forze armate e di polizia, veda tutto il discorso dei codici identificativi, dei sui caschi eccetera. Sul tema dell'efficienza e efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni. No, non ho capito, siete a favore di mettere il numero... Mi scusi. L'evasione fiscale, la prevenzione e il cambiamento della coscienza, della consapevolezza fiscale in Italia, semplicemente. Mm. Ma siete quindi a favore di mettere il numero sui caschi delle forze dell'ordine? Sì, come siamo a favore anche di altri strumenti che servano però per far sì che non si possa andare in piazza con volti coperti e quant'altro, ad esempio l'arresto differito se è costituzionalmente legittimo per le manifestazioni sportive. Sì, però Giuseppe, scusi un attimo, adesso nelle manifestazioni lei ha chiamato, stavamo parlando dello scontrino fiscale con la lotteria, di queste cose. Lei ha chiamato, cosa voleva dire? Sullo scontrino fiscale, certo. E che ne pensa di questa iniziativa? Siamo totalmente contrari. Perché come siamo contrari per altre proposte come quello di scaricare tutte le spese. No, mi dica perché quella dello scontrino con la lotteria? Perché il messaggio, d'accordo, va bene venderlo nei supermercati, ma non va bene per lo Stato, perché il messaggio è diseducativo e dirompente. Perché diseducativo? Perché al paese, perché io devo essere onesto, i cittadini devono essere onesti, non perché conviene, perché fa piacere, perché giocano o perché hanno un conflitto. Perché non può essere conveniente essere onesti. Un gruppo sociale solidale. Giuseppe, ma non è così, non è così. Lo Stato, il governo, e mi auguro che Renzi non accolga la proposta. Giuseppe, lei però si deve aggiornare perché non è così, culturalmente non è così, quindi è un problema che bisogna affrontarlo, non sperando che le cose cambino da sole. Grazie, comunque ha detto la sua, giustamente. Certo. Traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, intanto personaggio della settimana, diamo l'indizio. Così si comincia a giocare, perché qua, insomma... Anzi, siamo in ritardo. Siamo in ritardo. Allora, il primo indizio lo do io. Sì. Il nostro personaggio della settimana è un ambasciatore dell'Italia nel mondo. Punto. così, cominciamo. Beh, così è un buon indizio. A volte abbiamo detto semplicemente una donna, direi che questo è molto più avanti. 800 24 00 24. Oggi si vincono i biglietti Maps to the Stars di Cronenberg per andare nei cinema del circuito UCI. Se posso dire una cosa sulla questione del finanziere che ha prima chiamato dell'associazione. No, in realtà devo dire, purtroppo non c'ero quando hai intervistato per la questione degli scontrini, però devo dire che sulla carta non sono in disaccordo con il finanziere, nel senso che è un po' un peccato che per pagare le tasse in realtà dobbiamo avere un incentivo, nel senso che pagare le tasse non è che dovrebbe essere più di tanto conveniente. Come diceva Padoa-Schioppa, è meraviglioso. No, è doveroso in realtà, è semplicemente che uno sa che una parte di quello che guadagna lo dà allo Stato, di modo che lo Stato si occupi di tutti i cittadini che sono i suoi concittadini, è questo. Poi ammetto che in una situazione, in quella in cui siamo oggi, dove in realtà l'evasione ha dei livelli sempre più incredibili, può essere una strada questa dello scontrino con sulla lotteria, semplicemente per far tornare l'attenzione e dire: oh, guarda che conviene anche a te, nel senso che pagare le tasse poi quando stai male vai in ospedale e speri di pagare un po' meno. È il momento adesso di ricevere la cartolina dalla periferia con Simone Saccucci. Oh, è sempre un momento bello, mi piace un sacco questo momento. Buongiorno. Ciao Simone. Ciao Simone. Allora, questa volta ce l'avevi annunciato, domenica scorsa ti avevamo beccato che eri proprio in viaggio verso Scampia. È proprio quando uno dice periferia, insomma. Sei arrivato perlomeno. Sei arrivato, è già tornato. Fa anche rima, periferia Scampia. È un po' il simbolo, cioè di tutte le periferie, proprio quelle malfamate, le difficoltà, le cose che non vanno, il tentativo di reagire con una rappresentazione mediatica, tra l'altro gigantesca. C'è la fiction su Sky in questi giorni, Gomorra, ed è rinata di nuovo la polemica anche da parte di qualcuno a Scampia che dice: ma si parla solo male di noi. Insomma, tu sei stato lì e oggi la tua cartolina cosa ci racconta, Simone? Beh, racconto quella giornata lì. Arrivo più o meno all'ora di pranzo, vado a pranzo dalla signora Mirella, la moglie di Felice Pignataro, con cui fondò Gridas ormai tanti anni fa. C'è anche Martina, che è sempre di Gridas, e poi c'è Ciro, che lavora per Resistenza Anticamorra. Io gli propongo quello che vorrei proporre, gli propongo di mischiare le mie storie, le storie della mia città, con le storie del loro quartiere, e poi vediamo che cosa succede. Quindi sicuramente ritornerò, gli dico, e cominciamo ad organizzare. Stiamo a pranzo e il figlio piccolo di Martina, Michele, comincia a battere con il cucchiaino sul tavolo, che a sentirlo sembra quasi il codice Morse. Allora mi dicono, mentre parliamo, mentre il bambino batte, mi dicono che sarebbe bello che uscisse sempre di più la faccia positiva di Scampia, di quelli che propongono, che stanno creando, che stanno lavorando per un miglioramento, e parliamo anche della fiction. E non è tanto la fiction il problema, il problema è che si riproporre sempre la stessa immagine di Scampia e non quell'altra immagine, quella positiva che sta piano piano uscendo fuori. Mentre raccontiamo tutto questo, e in fondo raccontiamo anche delle vele e di quello che rappresentano, e anche per me Scampia in fondo è le vele, perché vengo dall'esterno e quindi le vele la rappresentano purtroppo tantissimo, mentre però raccontano di tutte queste cose positive, della ricchezza di associazioni e dei ragazzi che frequentano i centri e che stanno ricolorando piano piano i muri, che stanno pensando a cosa fare con le vele, Michele continua col cucchiaino, batte ancora col cucchiaino. Allora io penso che c'è un linguaggio che bisogna cominciare a far uscire da queste periferie. È un linguaggio che però è un pochino difficile, come l'alfabeto Morse, bisogna un po' imparare piano piano a ridecifrarlo, a capirlo. Tutto qua, me la ricordo ancora questa immagine di Michele che batte col cucchiaino e loro che continuano a parlare della loro periferia come io racconto della mia, come chiunque racconta del proprio paese, e cioè un posto in cui ho i miei ricordi, ho i miei legami e in cui voglio fare qualcosa di positivo. Grazie tutto Simone, qua. Grazie a Simone voi. Saccucci, bellissimo. Il nostro cantastorie, questa era la sua cartolina dalla periferia di Scampia. Grazie. Ci salutiamo con lo scherzo del destino. Se è un'altra vita quella che cerchi, non cercarla qui. Qui ci crescono solo i sassi e sasso sarai pure tu. Se è un'altra vita quella che cerchi, fai le valigie e vattene via. Un pezzo di terra, un bel asinitto e quella è casa tua. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E fu così che scesi dal monte con lo zaino sulle spalle e dall'alto vidi la valle e dissi quanta brutta roccia e rovi, spine e streghe che strillano la notte. Ma io non ho paura, io con le streghe ci faccio a botte. Oh, oh. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Mattone su mattone l'ho fatta tutta da solo, oggi ho 90 anni a volte, parlo da solo e la notte vedo le ombre e non riesco a dormire, ricordo quando dal paese ho dovuto partire. Oh oh. Simone Saccucci, lo scherzo del destino, la sua idea di questo linguaggio Morse. Ci siamo salutati così. Abbiamo 30 secondi prima di andare in pausa per il giornale radio, li dedichiamo a un ascoltatore, Giuseppe da Monza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cosa volevo dire? Non lo so, ce lo dica lei, lei che ha chiamato. Cosa voleva dire? Forse vuole rispondere. Dare la risposta al primo indizio. Bravo. Chi è il personaggio della settimana? Mi par che sia Lino Banfi. Perché? Perché è un grande ambasciatore dell'Italia nel mondo. Sì, ma c'è notizia, la notizia di questa settimana? Sono impreparato. Vabbè, Giuseppe, non si preoccupi. Comunque non era Lino Banfi il personaggio, allora che cerchiamo. Ha una notizia che è successa questa settimana. Grazie, ci sentiamo di nuovo dopo il giornale radio, tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Deep, una canzone del 2010, ce la segnala Maria Romani, la vostra canzone, il vostro Si può fare di oggi, domenica, caro Carlo Gabardini. Bella. Che bella. Mi dici? Ti piace? Mi piace molto, e mi piace molto questa cosa che si possono segnalare i propri Si può fare anche con una canzone, perché Si può fare, appunto, non sono semplicemente o per forza una notizia, possono essere anche semplicemente un modo di vivere. Allora, c'è un'ascoltatrice, Arianna da Venezia, che astutamente ci scrive al 349-238-6666. Fatta la lotteria sullo scontrino fiscale, è importante che essa sia legata all'esatto importo sborsato dal cliente. Fatta la legge, trovato l'inganno. Cioè, lei dice: tu spendi 20 euro e ti fanno uno scontrino di un euro. Anzi, no, meglio, fammene 20, fammene 20 da un euro di scontrini, direi. Così io partecipo, ho 20 biglietti per la lotteria. Questo potrebbe anche essere parzialmente legale, almeno sul fronte dell'evasione. Il rischio è che si emettano scontrini, ma non si con la cifra non corrispondente. Cioè, capito? È vero. Come è fatta la mentalità dell'italiano, che in due secondi ha già trovato l'inghippo. Ma poi, scusi, io non ho capito, nel senso che per ogni scontrino, ogni scontrino vale un biglietto della lotteria? È così? C'è una cifra, sì, un codice, e poi c'è un'estrazione, non so, ogni giorno, ogni settimana. Quindi in realtà uno al supermercato compra 42 cose, gli conviene fare 42 scontrini, su questo è in dubbio. Tecnicamente è possibile. Poi magari non paga tutte le volte con la carta, che ogni volta magari c'è sulla commissione, sennò alla fine spende 6 volte. Vabbè, tanto. La prossima domenica chiediamo di chiamarci agli italiani che stanno in Portogallo o in Slovacchia, oppure ci colleghiamo direttamente con l'Argentina, che ne so, l'altra volta avevamo parlato del Portogallo. Con tutta l'Argentina, proprio con i microfoni, dicendo: Argentina, ascoltateci, siamo di Si può fare, abbiamo bisogno di capire funziona lo scontrino con la lotteria o non funziona. Andiamo a Prato, da dove ci chiama Maila. Buongiorno Maila. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti. Prego. A entrambi. Grazie. Complimenti, sì. Io appunto volevo rispondere alla vostra domanda del quiz, non so se è quella giusta. Vediamo. Comunque secondo me è Sofia Loren. Perché Sofia Loren? Perché, a parte che è una grandissima donna, grandissima attrice, però perché è ambasciatrice nel mondo e perché sta girando l'ultimo film. È vero. Sta girando un effetti. Film fantastico, non ricordo il titolo, però è bellissimo, ho visto degli spezzoni. Sempre brava come sempre. Corrisponde tutto, Maila, brava. Corrisponde tutto, ma non è quella giusta. Non è quella giusta. Il nostro personaggio, non però sei stata bravissima. Possiamo dire. Aggiungere? Possiamo... Sì, grazie, Maila. Diamo un altro indizio, va. Diamo un altro indizio. Allora, diciamo che il nostro personaggio è famosa per la sua bontà. È un ambasciatore dell'Italia nel mondo, famoso per la sua bontà. Marco da Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Il montepremi dello scontrino sarebbe evitato leggendo il progetto. C'è scritto che il valore dello scontrino è legato poi alla vincita, quindi se uno scontrino da un euro vinco poco, se uno scontrino da 20 vinco tanto. Ah, grazie mille per la risposta. Ma questo comunque lei lo sa perché si è informato? Sono un artigiano, scusi, e Marco, sono a favore dello Marco, scontrino. Scusi un attimo, scusi un attimo Marco, lei lo sa questa cosa perché si è informato? Certo. O azzarda un'ipotesi? No, lo sa perché si è informato. Lo so perché mi sono informato. Sta guadagnando, sta guadagnando il mio posto da stagista qui a Radio 24. A prescindere, a prescindere, se lo merita. Questo, sì. Il punto di riflessione che volevo eventualmente porre era il seguente. Ripeto, sono un artigiano, sono a favore dello scontrino, non ho nessun problema. Ottimo. Dove andiamo in un'Italia che facciamo guardie e ladri a schiaffi tra tutte le categorie? Dopo io sono artigiano, sono già imputato come un evasore, un rovina Italia. Pensate che reggiamo tanto in questa situazione o iniziamo poi a denunciare anche noi quelli che fanno il nostro lavoro di nascosto, i dipendenti però, scusi, pubblici che vanno in pensione a 45 sì. anni e ne hanno 70 e tutt'oggi so. Prendono 2-3 mila euro al mese di lavoro. Infatti non va bene, non va bene. Dove neanche andiamo? Quello no, non è che non va bene loro, sono cose dove, diverse. Che Italia vogliamo Marco? Costruire? Non lo so, vogliamo costruire un'Italia con più legalità e con più giustizia, io credo. E va cambiata la cultura, non c'è no. La cultura si cambia se si cambiano anche le norme, questo è il mio punto di vista. Le cose vanno Marco ieri in piazza sì. Abbracciarsi. No, guardi, scusi un attimo, Marco. Punti in comune tra le varie sì. categorie fa più rispetto che a prenderci a schiaffi. C'è una cosa che, non capisco del suo discorso, perché è una lotta tra le categorie? Cioè, l'evasione fiscale riguarda tutte le categorie, non è che stiamo dicendo che gli artigiani sono evasori. Artigiani e commercianti sono gli imputati eccellenti. Dopo, perché il pensionato si deve difendere, perché tutti rubano, quindi un pochino posso rubare anch'io. Perché poi dopo il concetto è questo, no? Però è sbagliato chi che ruba è più furbo degli altri. Però è sbagliato. Allora, ascolti, però è sbagliato che il concetto sia questo, che il concetto sia se tutti rubano voglio rubare un po' anch'io, e se tutti rubano non deve rubare più nessuno, e questo ovvio. Invece è il concetto. Quindi iniziamo a lavorare su questo e non sul fatto che una categoria o un artigiano può andare contro un pensionato piuttosto che un pensionato può andare contro un altro. Va bene Marco, bisogna cominciare. Questo dice lei Marco. Noi abbiamo detto un'altra cosa, abbiamo parlato della proposta di fare lo scontrino fiscale con la lotteria e non c'entra nulla le categorie. Grazie, comunque buona giornata Marco. Adesso c'è il traffico. Torniamo tra pochissimo e faremo un si può fare all'estero. Andremo in Grecia. Ma l'uomo capriccioso spremeva, perdendo ogni decoro e dal dito, si è presa anche la mano e un niente diventa il Leviatano. E con mostro sei tu, proprio tu, nella valle dei templi costruisci con templi. Ma che uomo sei tu, proprio tu, il vero con mostro sei tu. Questi Valanzasca con Eco Mostro, perché la notizia che viene dalla Grecia, il si può fare che viene dalla Grecia questa settimana è questo: stop alla legge ammazza spiagge, rivolta in Grecia contro il governo Samaras, perché il governo di Atene è stato costretto a bloccare almeno per ora il decreto che liberalizzava le costruzioni commerciali sulle isole e le coste dell'Egeo, condonava gli edifici abusivi costruiti in passato e privatizzava, chiudendoli al pubblico, alcuni dei più bei litorali nazionali. Un sussulto di proteste, perché insomma difendere il paesaggio vuol dire probabilmente anche difendere il turismo, anche se nell'immediato probabilmente liberalizzando il governo pensava anche di fare un po' di incassi. C'è questo dibattito insomma in Grecia, ne parliamo con la ritroviamo Vicky Markaki, giornalista greca. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come andiamo con questa Io con questa credo norma? Che questo è un segno di civiltà e anche un segno di speranza, nel senso che Sì, i problemi economici sono sempre gli stessi, la depressione e la repressione è terribile, però almeno con una firma, sono state raccolte più di 150.000 firme online di cittadini quali dicevano stop al nuovo disegno di legge. Devo dire che anche i parlamentari hanno avuto finalmente un momento di orgoglio, hanno alzato la testa sia del governo Samaras e anche dell'opposizione, e tutti insieme, parlando di una legge mostro, sono riusciti per ora a fermarla, non solo a fermarla. Ma Vicky, ma qual era, scusami, la ratio di questa diciamo tentativo del governo di liberalizzare le costruzioni sulle isole meravigliose, dove il turismo arriva ogni anno a ondate, proprio perché sono bellissime? Se cominci a costruirci gli alberghi o le villette a schiera, che poi rimangono vuote per tutta la gran parte dell'anno, non ci viene più nessuno. Chi è che ha avuto questa idea folle? Perché? Essere sinceri, questa distruzione c'è già in gran parte. Ora, chi ha proposto la legge, che è praticamente una sinergia del Ministero dell'Economia con il Ministero del Turismo, specificano, spiegano, cercano di convincere che nemmeno la proposta della legge era così tanto selvaggia, chiamiamola così. La cosa importante secondo me è che questa protesta non è stata solo una protesta che si è chiusa là, ha fermato la legge e anzi, a quanto pare, il nuovo disegno legge, appunto perché si è vista la reazione popolare, prevede delle migliorie impressionanti ai confronti delle vecchie leggi sul litorale. Il primo passo, ed è assurdo che nella Grecia delle isole, delle migliaia e migliaia di coste, non esiste già, è l'anagrafe del litorale, non esiste, è appurato ormai che solo l'8% del litorale è stato catastato. Quindi tutto c'è un sacco di costruzioni che sa chi appartiene non e che si sa nulla. Allora, il primo passo è questo: entro 6, massimo 12 mesi si prevede l'anagrafe praticamente del 100% delle spiagge. Una nuova norma che a quanto pare passerà è quella che prevede che il 50% del totale di ogni spiaggia sarà libero, 50% potrà avere ombrelloni, giochi d'acqua e così via, se esistono già, ma il resto deve essere libero alla portata di tutti. E questo è importante non solo nella Grecia della crisi, è importante in ogni momento per ognuno poter scegliere se vuole l'ombrellone o se vuole semplicemente la sua spiaggia, perché è sua. Ma un'altra norma che si prevede da ora e poi, e si spera che diventerà legge, sì, è quella che protegge le spiagge particolari, chiamiamole così, là dove è paesaggio molto particolare o là dove è un sito archeologico nelle vicinanze importanti. Speriamo. Ma, scusa, volevo chiederti una cosa, ma diciamo la protesta è avvenuta solamente online, cioè hanno raccolto solamente le 100.000 firme tutte online? Sì, hanno raccolto più di 100.000 firme. Perché questo è interessante, perché diciamo, in Italia con l'online, con le petizioni non è che funziona molto, quindi un governo... Sta funzionando questo sistema del governo di chiedere il consulto popolare, la democrazia partecipata, la firma online sta funzionando perché è stato veramente una risposta eccellente, per di più ha spinto molto probabilmente anche chi tra i parlamentari non aveva nessuna intenzione di essere sensibile a essere. Ma Vicky, una cosa, è una buona notizia questa comunque, Vicky, che funzioni. Vicky, una curiosità, scusami. Noi siamo solo 9 milioni. Scusa Vicky, una curiosità, ma è stato il governo a chiedere, ad aprire questa consultazione chiedendo un parere alle persone sul decreto, oppure online, nel senso che ci sono state delle petizioni nate spontaneamente? Sono state le petizioni sia della WWF sia di altre organizzazioni. Però è pur vero che ora il governo ha aperto la consultazione online raccogliendo proposte, indicazioni, sì, perché è quello che sta succedendo anche, anche in Italia ultimamente. Si sente sempre più spesso, insomma, Renzi lo fa, Renzi ha il polso della situazione, essendo lui personalmente sempre su Twitter, e questo è anche un buon segno. Però vediamo come questa, diciamo, l'immediatezza della rete consente di dare il polso. Che una specie di democrazia diretta riparte dalla Grecia, non mi dispiace. No, mi sembra perfetto. Beh, insomma, direi è che un perfetto. Cerchio che si chiude. Si chiudono perlomeno i nostri studi classici. Senza avere per di più gli schiavi, cioè siamo veramente a un passo avanti. Questa è perfetta. E con questo ci salutiamo. Grazie Michi Marcacchi per questa notizia. Grazie. Qualcuno potrebbe dire che gli schiavi siamo noi, ma insomma, siamo tutti, però. Perché? Così, perché siamo tutti schiavi, diciamo, di questo sistema economico. In Grecia in questo momento lei giustamente dice senza avere gli schiavi. Non però, avevo capito, diciamo, il sistema economico. Adesso, a proposito di ecomostri e di isole, facciamo un aggiornamento tutto italiano che riguarda Venezia e l'isola di Poveglia. Ne avevamo parlato settimana scorsa, c'era attesa per questa asta dove si molta sono attesa. Presentati i cittadini, Poveglia per tutti, che volevano scongiurare nuovi resort, nuovi alberghi, nuove costruzioni, cementificazione inutile, e l'asta però non è andata benissimo. Ne parliamo con Giancarlo Chigi, presidente dell'associazione Poveglia per tutti. L'asta non è andata benissimo, buongiorno intanto, però c'è ancora qualche spiraglio, mi sembra di capire. Questo è l'aggiornamento che vogliamo fare. Voi resistete? Sì, non si tratta di un'asta, si tratta di un invito pubblico ad offrire. Ecco, questa è un'importante differenza. Sì. Perché l'asta pubblica prevede che alla fine il contraente sia scelto con un meccanismo automatico. In un invito pubblico ad offrire invece il contraente è scelto ad insindacabile giudizio del venditore. Cioè, mi corregga se sbaglio, in realtà, se fosse semplicemente un'asta, chi offre di più vince automaticamente. Invece se non è un'asta ma è un'offerta, può essere che il comune decida anche con degli altri criteri che non sono solamente la somma offerta, giusto? Esatto, è il demanio in questo caso. Demanio, chiedo scusa. 7 e 8 del bando c'è scritto: a suo insindacabile giudizio, ove vi sia un interesse pubblico a contrarre, ci sarà comunicazione al contraente. Quindi c'è ancora speranza, diciamo? C'è più che una speranza. Ah, ottimo. Perché se il demanio dovesse valutare che non vi sia interesse pubblico a contrarre con 513 mila euro per 7 ettari di laguna, come vi stiamo chiedendo noi, e potrebbe avviare una procedura diversa per l'assegnazione di questo. Però forse dobbiamo dire che quindi c'è qualcuno che ha offerto 513 mila euro, è così? La Umana Holding ha offerto 513 mila euro, ripeto, per 7 ettari di laguna. Con che progetto, Giancarlo? Cosa vogliono farci? Allora, loro? Il primo giorno ci avevano annunciato che il progetto era un progetto da 20 milioni di euro ed era un progetto aperto. Il secondo giorno ci hanno annunciato che è di 40 milioni di euro ed è una clinica. Quindi il progetto aperto, a quanto ci risulta, è durato un giorno solo. Una non clinica... abbiamo fatto in tempo a dare suggerimenti o altro. Sì, una clinica privata, naturalmente. Beh, sì. Sì. Allora, invece, noi, invece Giancarlo, ovviamente... il vostro progetto, andiamo per gradi, il vostro progetto invece qual è? Ricordiamolo. Il progetto è un progetto che, ripeto, nasce da un'indignazione 40 giorni fa. In così poco tempo non potevamo certo elaborare un progetto definito per l'area, però avevamo 4 linee guida. Su queste linee guida abbiamo raccolto 4.000 aderenti, 15.000 simpatizzanti e una bella cifra, dati i tempi, cioè 450.000 euro. Sì. Una colletta diffusa dove le persone mettevano 99 euro a testa. Mm-hmm. Ecco, intorno a queste linee guida si è raccolto un interesse veramente enorme. Sì, enorme. L'altra volta ci diceva anche da fuori Venezia, anche dall'estero addirittura, per questo vostro tentativo di, come dire, di salvaguardare un po' anche dal punto di vista ambientale e dell'accessibilità a tutti questa isola. Ma detto proprio così, io non sono mai stato, non credo, ho visitato Venezia, forse anche qualche isola, non ricordo, Poveglia, ma non potrebbe essere compatibile una clinica privata in un pezzetto dell'isola e il resto in qualche modo accessibile, visitabile? Oppure vi spaventa questo progetto perché a questo punto? quello della clinica? Perché abbiamo visto quello che è successo nelle isole attigue. Mm. Cioè, nell'isola di San Clemente era previsto uno spazio ad uso pubblico che poi alla fine è stato rimangiato in corso d'opera dei progetti. La stessa cosa è accaduta a San Servolo. La vendita delle grazie ha avuto le stesse prescrizioni che poi non si sono mantenute. Beh, noi crediamo che i progetti calati dall'alto che sono avvenuti negli ultimi anni in Laguna siano dei progetti che non stanno in piedi neanche dal punto di vista economico, non dico dell'interesse pubblico perché siamo lontanissimi, ma neanche dal punto di vista economico, infatti sono falliti uno dopo l'altro, per cui abbiamo proposto un modello diverso. E adesso ve la vedrete con il demanio, cioè con lo Stato? Adesso crediamo che il demanio abbia buone possibilità di non ritenere congrua questa cifra e quindi scelga il suo scopo costituzionale, cioè... Tra l'altro devo dire che insomma comprarsi un'isola di 7 ettari in un posto meraviglioso come quello per 500.000 euro, averlo saputo, Carlo, beh, io facevamo il mutuo, certo, andavamo. Un bel mutuo, in effetti. E poi facevamo lo studio, no, di Radio 24 da lì. Esatto, l'altra cosa che mi sembra positiva è che in realtà poi non c'è neanche tutta questa differenza, nel senso che di solito uno dice c'è un colosso, una holding che entra e offre 15 milioni, invece i cittadini ne hanno offerti 180.000 euro, invece non mi sembra che ci sia una grande differenza sono fra molto, le due. Molto vicine, cioè, molto voi, vicine. Voi ne avete offerti quasi 400.000, giusto? Un tasso di accumulazione che farebbe impressione a qualsiasi grossa holding, nel senso che una settimana prima avevamo 160.000 euro e la settimana dopo ne avevamo 400.000. In mezzo ne abbiamo parlato, si può fare, forse per noi abbiamo anche detto che avremmo comprato delle quote anche noi. No, non volevo essere ringraziato, volevo dire che sono molto felice di questa cosa invece, partita dal basso, perché è anche molto bello il fatto che nessuno possa metterci più di 99 euro, quindi non è che improvvisamente si trova l'investitore, un altro padrone, Giancarlo, che c'è un'altra idea. Giancarlo, prima di lasciarci... Qualcuno può mettere anche di più, Sì. Prima di lasciarci però, quali sono i tempi per questa decisione? Allora adesso il demanio ha 30 giorni di tempo. Ecco. Se nella malaugurata ipotesi che ritenga congrua questa cifra, noi riteniamo non possa farlo, nel caso successivo noi abbiamo chiesto e abbiamo visto che gli enti locali sarebbero interessati di esercitare il diritto di prelazione degli enti locali. Tra l'altro, se non ricordo male... il demanio è una di quelle agenzie, autorità, aziende, non so neanche come definirla, che è in attesa di rinnovo dei vertici, credo debba essere nominato nuovo vertice del demanio, mi pare, e quindi anche qui sarebbe interessante capire poi come viene gestito, perché il demanio gestisce non soltanto l'isola di Poveglia, ma una quantità spropositata, certo, di beni caserme, pubblici, l'ex caserme, si cerca di fare incassi, però è chiaro che se tu vendi un'isola a 500.000 euro non ha senso, o la vendi per 20 milioni di euro a chi fa un progetto, l'ha anche detto che loro hanno fatto un'altra, allora questa incassi, è stata la proposta, quindi in questo caso mi sembra ovvio che vada data ai cittadini. Per quello ha ragione Chigi a dire datecela a noi, che intanto non incassate nulla vendendola a questo privato, perché o tu vendi il demanio incassi, oppure favorisci progetti di cittadinanza, progetti di gestione pubblica partecipata. Grazie Giancarlo Chigi, ci sentiamo più avanti. Grazie mille. In bocca al lupo. Ci sentiamo sicuramente entro questi 30 giorni, giusto? Aspettiamo la settimana prossima. Va bene. Chiamate voi se non chiamiamo noi. Va bene. Poveglia per tutti, potete andare anche a cercare online informazioni e volendo anche aderire a questa iniziativa. Sentiamo un ascoltatore, Aurelio da Bari. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Che ci dice Aurelio? Secondo me mi è venuta un'ideuzza che la bontà si riferisca anche al prodotto che lui reclamizza in Italia e quindi penso sia Carlo Petrini. Astuto, astuto Aurelio. Oh, diabolico. E la notizia della settimana? La notizia della settimana non la so proprio. Però lei dice ce n'è sempre una, sarà Italy, sarà un'apertura, sarà... Aurelio, l'idea era buona. Mancava appunto la notizia, l'idea era buona, non è Carlo Petrini, però possiamo aiutare gli altri ascoltatori dicendo che il ragionamento ha diciamo in nuce qualcosa che potrebbe portare alla soluzione, un suo fondamento. Bravo Aurelio, comunque riprovi la prossima volta. Ci fermiamo, torniamo tra poco 00240024 tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Da. Mettiamo un tubo dalla... mano. Arrivo ai controlli con la boccia d'acqua in mano. Ogni volta mi fanno buttare l'acqua, la butterei dentro il tubo e fanculo ai sensi di colpa. Ho idee per cambiare il mondo, ma per realizzarle non mi bastano i soldi sul conto. È come nel poker, svoltiamo solamente se ci arriva una buona mano. Una ricetta da inventare, dalla me. Una cappa per pensare, dalla me. Se hai violenza da sfogare, dalla me. Se ti senti da sola, baby, dalla me. Io sicuramente non la spreco. Io sicuramente non la spreco. Io sicuramente non la spreco. Io sicuramente non la spreco. Un'amica super fica che sta con uno che non la merita mica. Lui era in viaggio in Africa e l'ha tradita, mentre la consolo penso viva l'Africa. Vorrei un telecomando come Sky, così quando ti imbarazzi metti in pausa e te ne vai. Vai vai hasta luego. Se parlate troppo di cazzate me ne vado, perché il tempo non lo spreco. Dalla me se non ti va, a me se non ti dà quello che ti dava prima me lo ridarà. Dallo a me che non ti pentirai, non lo richiederai mai. Dallo a me non si sa mai. È sempre vuoto il mio piatto, finisco tutto, sarebbe brutto. Dallo a me di certo non lo butto. Non è avanzato quello che mi hai dato, non l'ho sprecato, non l'ho sprecato. E se non ti va di lavorare, dillo a me, c'è qualcosa da buttare. Dallo a me, c'è la musica da esportare. Dallo a me, una voce per scattare i cuori. Dallo a me, io sicuramente non lo spreco. Io sicuramente non la spreco. Io sicuramente non lo spreco. Con questa Dalla Media Rezzo Phonic avete sentito, insomma, si parla di spreco. Spreco, tra l'altro, è la parola chiave per giocare con noi questa settimana nel contest Inviati Cercaci. Cerchiamo buone notizie che abbiano a che fare con lo spreco, quindi al contrario, col recupero di qualunque cosa, materiali, medicine, alimenti, vestiti. Scriveteci, avete tempo sino a mercoledì, si può fare radio24.it. Ed è una notizia di lotta allo spreco, quella di cui parliamo adesso. Viene da Torino la nuova invenzione, una app contro lo spreco, si chiama lastminutesottocasa.it. Il suo ideatore lo abbiamo qui con noi, si chiama Francesco Ardito. Ciao Alessio, ciao Carlo, buongiorno a tutti. Siamo ciao. Felici di avere con noi uno sviluppatore, un ideatore, un giovane che realizza, tra l'altro nell'ambito, credo anche dell'incubatore di startup del Politecnico di Torino, una realtà importante. Sì, sì, assolutamente. Beh, siamo all'interno di Tritabit, che è il percorso di incubazione delle startup digitali, appunto dell'incubatore del Politecnico di Torino, uno dei sì. più importanti a livello europeo. Prima di partire solo due parole per dire che mi è piaciuto molto l'intervento precedente, perché io sono stato uno dei primi a firmare quei 100, tra i 100.000 che hanno firmato. Vado spesso in Grecia e guai. Ah, la petizione greca stai dicendo? La petizione greca. Oh, vedi che tutto torna, ci siamo ricollegati anche con la notizia. Adesso vi chiamiamo tutti uno per uno, tutti e 100.000. Sei il primo che chiamiamo, ma abbiamo l'indirizzo di tutti e 100.000 e li chiameremo tutti uno per uno prima dell'estate. E speriamo che diventino 200.000. Giusto. Beh, certo. Avete già vinto, direi che hanno fermato la legge, quindi sì, potete brindare, bellissimo. Possiamo brindare. E invece, parlando un po' di questa app, stiamo rubando un po' il lavoro a Enrico Pagliarini 2024, che si occupa di lui, sì, seriamente, di nuove tecnologie, di cose così, però noi ci occupiamo di tutto, anche di lotta allo spreco, Francesco. Come ti certo. è venuta l'idea e come funziona? Assolutamente, allora l'idea nasce proprio da una osservazione personale che vivevo spesso, nel senso mi capitava spesso di andare in panetteria alle 7 di sera, alle 7:10, poco prima della chiusura, e vedere spesso che su questi banchi purtroppo c'erano ancora 5 pezzi di pizza rossa, 4 pezzi di pizza alle cipolle, 4 arancine e 6 brioche, supponiamo. E quindi chiedevo assiduamente al negoziante, scusi, ma cosa ne fa di sta roba? Giusto. E purtroppo vi assicuro, la risposta più comune era niente, la buttiamo, non possiamo riproporre questi prodotti domattina. E una volta, e due, e tre, finché diciamo il flash, a dire la verità, è scattato a fine anno, quando ho visto la stessa situazione a un quarto d'ora dalla chiusura di un bel bar elegante qua in città, a Torino, che aveva ancora nella colonnina penso una decina di brioche e idem una decina di tramezzini con i carciofini e la maionese. Di nuovo questa cosa ho chiesto e dice la butto, domani non posso proporla. Allora, alzando gli occhi al cielo, ho visto che nel raggio di 200-300 metri da quel negozio c'erano migliaia di persone che abitano lì e migliaia di smartphone accesi. Allora l'equazione è stata molto semplice, il pensiero è stato: ma perché non mettere in grado questo negoziante, con estrema semplicità, proprio come fosse mandare un SMS, di scrivere testualmente, senza foto, senza caricamenti di immagini, cose complicate: scendete, mettetevi le scarpe e vi do, invento, una brioche anziché a un euro a 30 centesimi. supponiamo che lui avesse 10 brioche sul banco, le persone ricevono in quell'istante sullo smartphone il messaggio, scendono giù, si mettono le scarpe o mentre sto tornando a casa, mentre parcheggio la macchina vado a prenderla, il negoziante 10 brioche ha portato a casa 3 euro che non avrebbe portato a casa. Il cliente ha comprato un prodotto a prezzi veramente convenienti e quindi è felice e soprattutto è, come dico sempre, win, win, win, vince un terzo attore che è il pianeta, non buttiamo certo. il cibo. E ma, ma come funziona, scusami, ecco. Nel senso, com'è che arriva il messaggio solamente a chi abita in quella zona? Perché te lo racconto subito, ah, Carlo. Perfetto. Tra l'altro una cosa che ci tengo a dire, l'idea è nata così, e come vi ho detto, in un flash, e per fortuna pochi giorni dopo l'idea ho incontrato un carissimo amico di vecchia data, Massimo Ivul, che saluto, che mi ha detto l'idea è bellissima, dai facciamola insieme, quindi in realtà diciamo è partita dalla mia testa, ma siamo io e Massimo che la portiamo avanti per ora. E bello anche che lo dici, che molte volte uno c'ha un'idea e pensa di essere l'unico che l'ha portata avanti, invece tutti quelli che hanno collaborato anzi, all'idea, complimenti. Tra i miei amici forse non potevo trovare meglio, perché io forse sono un po' più creativo, ma lui è molto bravo. Spiegaci come funziona. Allora partiamo, molto semplice, il negoziante, in premesso che sul sito lastminute.casa.it c'è un video che in 2 minuti spiega tutto, quindi io consiglio a tutti perfetto. Di guardare questo video lastminute.casa.it. Perfetto Carlo. Come funziona? Il negoziante si registra e indica dove si trova il suo negozio e qual è la sua categoria merceologica, ad esempio panetteria. Lui ha finito, ha detto dove è il negozio e qual è la categoria. Il cliente, ci sono due bottoni, proprio è semplicissimo, 2 pulsanti, il cliente allo stesso modo si registra e dice dove abita, può mettere anche più di una location, perché supponiamo vuol tracciare le offerte vicino a casa sua per la sera, ma le offerte anche a pranzo, e lui lavora in centro città, quindi anche lui dice praticamente Google Map dove è casa sua e dice per le categorie che ci sono, quindi panetterie, gastronomie, bar, gelaterie, cosa quali interessa? Vuole tracciare. Perfetto. Quindi ad esempio non mi interessano le pescherie, non le segno, e a quante centinaia di metri da casa mia, quindi la scelta aspetta il cliente, a che distanza, quanti metri è disposto a percorrere per andare a prendere quell'offerta. Perfetto. Per cui non è invasivo, non è il negoziante che decide sparo nel raggio di 3 km, ma è il cliente. Certo. Il meccanismo è veramente semplice, perché una volta registrato il cliente non deve fare più nulla se non che tenere il cellulare acceso e bling, quando gli suona. Guarda, se posso dire, è veramente un'idea bellissima, perché penso che in tanti ci abbiamo pensato nel momento. Io mi ricordo che anch'io andavo in una panetteria e mi ero accorto che avanzava sempre un sacco di roba e quindi me la vendevano sotto costo nel momento che arrivavo alle 7 di sera, però anche questo per loro è un problema, perché se diventa norma ovviamente le persone aspettano sempre le 7 di sera, si fa la coda fuori, lui di pizza a quel punto ne sono anche avanzate 600 e lui e questo non funziona. Invece la cosa che funziona è in questo, che avete avuto l'idea geniale di usare la tecnologia, che invece diventa intemporale, cioè io oggi ho 4 brioche, domani non so se ce l'avrò e ho bisogno di venderle entro un quarto d'ora, entro Carlo, mezz'ora, entro un'ora. Mille. Niente, grazie a te. Hai detto quello che di solito dico io quando me lo chiedono: non fate sempre la stessa offerta, fatela quando veramente ne avete necessità. Esatto. E dicevo, partiti con panetterie e poi partite un passaparola e si sono aggiunte gastronomie. Ecco, bar, questa è la cosa, Francesco, interessante, perché siete partiti e la risposta è stata positiva da parte dei commercianti, che si sono esaltati a questa idea. Assolutamente. No? Guarda, ti dirò, abbiamo ricevuto molte più iscrizioni di quelle che immaginassimo, e anzi, una cosa importante, la dico per correttezza, anche nei confronti di chi si iscrive. Sì. Chiaramente che statisticamente sono molte più le persone che ascoltano una notizia, lo sanno, e che non hanno un negozio. Quindi in questo momento abbiamo tantissimi clienti che si stanno registrando, certo. diciamo, e chiaramente non sono tanti negozi, cioè c'è una certa sproporzione. Ma noi, sapendo di questa cosa, siamo già in contatto con parecchie associazioni di categoria con cui abbiamo già avuto riunioni, sì. proprio perché siano loro ad informare anche i negozianti di questa cosa. Per cui creeremo a quanti più o meno quanti contatti avete avuto? Come funziona? Ma i contatti sono una marea, per cui ti dico le iscrizioni che sono quelle che contano, sì. perché non è tanto. In poco più di un mese abbiamo superato già le 1000 registrazioni. Beh, e soprattutto quel che dico anche, perché molti clienti che si registrano non ci pensano, quando lo diciamo ah già, il primo suggerimento che mi permetto di dare è: cari ragazzi, cari clienti, parlatene al vostro panettiere, parlatene alla vostra macelleria, è certo. vero che ci aiutate a diffonderla, ma i primi a beneficiarne sarete voi, perché riceverete le offerte sotto casa vostra, quindi aiutateci a crescere, perché ripeto, i primi a trarne beneficio siete voi. E giusto per dire una nota anche di cronaca simpatica che mi piace, beh, sono partito recentemente un ristorante bellissimo, 500 calorie di Torino, una catena Pasta & Company, un gruppo di panifici sta partendo, siamo veramente, ci stiamo divertendo e siamo eccitati da come stia andando la cosa. Però quello che è carino è un episodio che mi ha raccontato uno dei tanti panettieri. Mi diceva: ma tu sai che io quando mando un'offerta passano 5 minuti e scende una signora che avrà 80 anni sistematicamente? Ma questo è bellissimo, è bellissimo, molto bello. Il bello deve venire. Allora lui dopo un po' di volte le ha chiesto: scusi signora, ma mi spiega, lei ha uno smartphone, come fa a essere? Ce l'ha mio nipote. Bravissimo, lei ha detto: io non so neanche cosa sia questa cosa dell'internet, però la cosa mi è piaciuta, ho detto a mio figlio di registrarsi e non appena lei manda il messaggio, mio figlio mi telefona e mi dice: mamma scendi che ci sono... Fantastico, stupendo. Fantastico. Se posso aggiungere un particolare, uniamo le generazioni così. Io direi, la racconterei identica questa storia dicendo: mio figlio mi chiama sul fisso, perché quello è il bello, cioè, e quindi vi siete portati a casa, diciamo, anche chi ha ancora il fisso. Grazie Carlo. Va bene, grazie. È una bellissima idea, ma c'è solo a Torino, no? No, anche noi siamo partiti a Torino e chiaramente adesso stiamo cominciando ad uscire, a espanderci, chiaramente nella nostra fase adesso stiamo cercando finanziatori, faremo partire col crowdfunding, degli sponsor. Su, arrivate anche verso Porta Venezia Milano, che io ne ho bisogno di pane. Guarda, intorno alle 7. Carlo, spero di arrivarci in fretta. E tra l'altro una cosa veramente simpatica, Porta Palazzo, il più grande mercato europeo, è partito con una serie di negozi, pesci vendoli, e vi suggerisco davvero, non per noi, ma andate a vedere sul Facebook di lastminute.sottocaldo.it, c'è il video di un pescivendolo, vi farà spanciare dalle risate. Lo faremo, lo facciamo di sicuro. Grazie Francesco Ardito, grazie, in bocca al lupo per questa iniziativa. Bellissima idea. Ciao, credi, ciao. Un saluto. Bravi. Ciao. Allora, intanto tutto questo per scongiurare che cosa? La Luisona, ecco come si chiamava, la brioche la in vetrina del libro di Stefano Bendi, che lui diceva: c'è questa brioche lì da anni. Poi arriva un avventore, uno straniero, normalmente, e indica la Luisona e tutti perché quelli che vuole, finalmente si mangia la brioche che è lì da anni e anni. E per scongiurare la Luisona, ecco che i ragazzi di lastminute.sottocasa.it hanno inventato questa meravigliosa app. Traffico. Perfetto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Maurizio da Bologna, 800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa ci voleva dire Maurizio? Ah, niente, io telefonavo per il quiz. Sì? Chi è il personaggio della settimana? Per me è la Nutella. Eccolo qua. L'applauso che sottolinea la vittoria. La risposta vincente. La vittoria. Perché vogliamo dare anche la notizia, però è abbastanza facile. Niente, perché questa settimana c'è stato l'anniversario, il compleanno dell'invenzione della Nutella. Esatto. Il 50° compleanno. L'invenzione della Nutella, esatto. Come parlano a Bologna. Maurizio, esatto, proprio così, anche se sono romagnolo. È perfetto, esatto. E hai indovinato prima che io iniziassi con tutti degli indizi riguardanti ovviamente il mio video marmellata, sì, e Nutella, perché si poteva pensare che l'avessimo scelto per quello, ma non è per quello, è perché ha compiuto 50 anni la Nutella. Via, un po' sotto sotto è anche per quello, anche certo, per il video di Carlo, io però voglio insomma. Bene alla Maurizio, Nutella. Complimenti, questa settimana in palio avevamo i biglietti per il film Maps to the Stars Cronenberg nei cinema del circuito UCI, quindi a Bologna ne troverai sicuramente uno, glieli invieremo. Grazie, buona giornata. Grazie mille, buona giornata, buona domenica. È sempre bello assegnare i premi agli ascoltatori. Devo dire che il personaggio della settimana non è mai successo che non venisse indovinato, anche perché alla fine proprio ci sbracavamo con indizi di poi sulla Nutella, la Nutella. Qua la parola bontà è stata determinante. Eh sì, assolutamente. Sono arrivate un bel po' di risposte. Può darsi che riusciamo a premiare anche non soltanto il primo, ma anche il secondo e il terzo, come riusciamo a fare in alcune occasioni. Adesso che facciamo? Parliamo, c'è stata la settimana della lentezza, cioè il giorno che poi è diventata una settimana, poi siccome essendo lenta poi... E io lo sapevo ed è per quello che ieri sono arrivato in ritardo e oggi quasi, perché ho fatto tutto molto molto molto lentamente. E ne parliamo con un'iniziativa che ha a che fare, ma anche no, stiamo rallentando, la riscoperta dell'antica via Clodia. È il tempo pure potente, ma chiappa e me trascina come un ciocco che scivola a corrente. E se mi sforzo di viaggiare più lentamente, e non scappo e devo pure più di prima, perché sta società è malata di velocità, tutti in fuga dall'impegno precedente. E piave tutto e non fa se manca niente, poi tutti ancora presso un'altra attività. È il movimento lento che cerco, ma che non trovo mai. Violentemente lotto contro il tempo, tiranno dei miei guai. In occasione occasione di Passione Maremma Wine and Food Shire, Grosseto, 16, 17, 18 maggio, dunque finisce oggi, organizzata dalla Camera di Commercio di Grosseto su un'idea di Sandro Vannucci, direttore del progetto, grazie a sostegno, torna alla luce l'antica via Clodia. Come? Lo chiediamo intanto a Gianni Lamioni, che è ideatore responsabile di Passione Maremma. Buongiorno Lamioni. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Poi stavamo cercando di collegarci anche con Vannucci, che credo che sia a cavallo, proprio quasi arrivato a Grosseto, partito da Roma. Adesso spieghiamo piano piano di cosa non si tratta. Non a cavallo tra Roma e Grosseto, proprio che è a cavallo proprio, sta cavalcando. Stretto del termine. Qua a Milano non siamo abituati a sentirlo dire, quindi bisogna sottolineare che a cavallo si intende a cavallo. Assolutamente sì, è veramente a cavallo da Roma a Grosseto. Ecco, un attimo, perché abbiamo Vannucci, lo facciamo subito perché la linea sì. Va e viene, e poi parliamo con lei, Lamioni. Vannucci? Eccomi qua, io sono davanti al castello di Montepò e tra qualche ora arriverò a Grosseto. Ma sei a cavallo? Beato te, Sandro Vannucci. Sono a cavallissimo. Facci sentire qualcosa. 40 o 45, non ho capito ancora, perché ogni minuto si sta aggiungendo gente e facciamo l'effetto valanga, per cui scenderemo giù da qui, da Montepò, andremo verso Montorgiali e poi dopo arriveremo a Grosseto in serata, nel pomeriggio, e poi faremo questa grande ingresso per Passione Maremma Wine Food Shire. Insomma, nella giornata, settimana della lentezza, ci sembrava adatto accostare questa passeggiata a cavallo nella Maremma, che è una riscoperta in realtà dell'antica via Clodia. Ma cioè, avete sotto di voi proprio gli antichi sassi, i lastroni, quelli della via? Sovente. Spesso noi abbiamo incrociato in questa passeggiata, che è partita da Roma, non so se l'avete già detto, siamo partiti dal Colosseo, abbiamo fatto i fori imperiali e poi dopo Via del Corso, in Piazza del Popolo, insomma, e poi siamo usciti Lago di Bracciano, Blera, Tuscania, e poi due giorni fa siamo entrati in Toscana, Pitigliano, Sovana, Scanzano. E adesso siamo qua, siamo già ormai a più di 200 chilometri. Tantissima invidia da parte nostra. Recuperiamo un attimo Gianni Lamioni. Per la strada più che tutto, perché io andare a cavallo non sono buono, quindi su quello poca invidia. Secondo me andando piano piano ce la potresti fare anche tu. Lamioni, il cappello di questa iniziativa ce lo vuoi raccontare in un minuto, perché poi dobbiamo chiudere. Grazie. Sì, no, l'idea è di Sandro Vannucci, noi come Camera di Commercio l'abbiamo sposata in pieno, perché riteniamo che riportare alla luce un percorso del terzo secolo avanti Cristo che sia percorribile a cavallo, ma anche in bicicletta, ma anche a piedi, sia di una suggestione incredibile. La Maremma è tutta una terra di grande suggestione, una terra per chi ama la natura, per chi ama il cavallo, per chi ama un turismo lento, come avete fino ad ora detto voi, e quindi abbiamo sostenuto questa iniziativa. Si vedono dei percorsi e dei territori che sono inimmaginabili, e poi c'è questo rapporto con l'animale, con il cavallo, che è uno dei messaggeri della Maremma, fantastici, per cui questo è un percorso che resterà fruibile, non l'abbiamo realizzato in occasione di Maremma Wine and Food Share. Grazie Lamioni, dobbiamo purtroppo salutarci qua, grazie, in bocca al lupo, buon divertimento soprattutto. Noi ci fermiamo qua, grazie ad Andrea Piana, Giorgio De Luca, Camilla Tomadini, Carmelo Laruscella. Buona domenica da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ciao a tutti. Ciao.